senti? Sì, ti sento Perfetto. benissimo. Eccomi, ci sono Bambine di un anch'io. anno sono sempre complicazioni. No, no, ma lei sta bene, sta benissimo. Solo che oggi, stamattina, ero convinto che la mia compagna andasse a lavorare. Invece, se l'ha presa la mattina libera, non lo so, cioè, non lo sapevo. Lei mi dice che me l'ha detto, non mi ricordo. Sono molto sincero, secondo me non me l'aveva detto, ma perché siamo anche in mezzo di trasloco, quindi siamo un Capisco, po'. capisco. Abbiamo traslocato quando è nata, mia figlia quando era 6 mesi, un casino pazzesco. Esatto, guarda, noi la nostra unica fortuna è che ci stiamo trasferendo nella casa accanto, quindi. Che Ma no, poi ma non si io, sa. mi lamento molto poco, però appunto. Senti, allora, io ti presento, non conosco il tuo cognome. Ah, Del del prete, prete, tutto esatto. attaccato, se mai dovrei scriverlo. Sì, Sì, parla Luca. perché appunto Tiziana mi ha girato il tuo numero, mi ha detto che ti conosce bene, eccetera, eccetera, Sì, proprio. sono anni che ci conosciamo. Sì, io sono qua a Torino, lavoro, sono 20 e passa anni che lavoro nell'editoria e da quando è nata ADO, quindi dal 2010 sono qua in ADO, facciamo saggistica Ad, già e dal 2010, ADO dal 2010, sì. Ad. Cioè, Addirittura dal pensavo 2010. qualche anno dopo, va bene. No, poi è avuto un cambio di proprietà grosso nel 2014, quindi praticamente è rinata nel 2014, però nasce nel 2010. Nasce proprio tra l'altro nel mio salotto perché non avevamo ancora l'ufficio, quindi diciamo, la redazione era casa mia in quei giorni. Allora, senti, la chiacchierata appunto sarà sul libro, perché a me è piaciuto, è molto curioso come libro, mi è piaciuto molto, è un libro particolare, poi non conoscevo né la storia di lui ovviamente, ma chi conosce uno scienziato del genere? E non conoscevo neanche lei che invece ha anche un suo, una sua vita, una famosa divulgatrice, scientifica, che non ne so niente, Affascinante. quindi. Lei lavora per NPR, la radio divulgazione americana, la Eh radio sì, pubblica americana. esatto. E questo è il primo libro, ma ci ho messo 10 anni a scriverlo, perché lei appunto nasce come scrittrice, quindi chissà quanto Esatto. ne Quindi avremo un altro. ti racconterò, scusa, ti voglio dire, ti chiederò anche della sua vita perché mi incuriosisce molto, perché credo che sia. Poi anche da come scrive, proprio perché non è una scrittrice, da come scrive, uno non penserebbe che nella vita non fa la scrittrice, Eh no? certo. Quindi, No, è stato bravissimo, sì. questo libro è stato più baciato dalla grazia della scrittura, perché dicevamo ieri sono 200 pagine, quanta roba c'è dentro, è È vero, è impressionante. vero. Allora, al mio 3 cominciamo, d'accordo? Aspetta che preparo una cosa, qui siamo al massimo, eccoci qua. 1, 2, 3. L'ospite di questa sera di Tabula Rasa è un ospite che mi fa molto piacere presentarvi perché è di una casa editrice che a noi piace molto e che spesso abbiamo in trasmissione attraverso i loro testi, parleremo con Stefano Del Prete, ADD Edizioni, anzi no, ADD Editore, scusatemi, e parleremo del libro I pesci non esistono di Lulu Miller, un libro che mi ha molto sorpreso. Buonasera Stefano, prima di tutto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato a parlare di questo libro. Sì, soprattutto perché con ADD appunto abbiamo già un rapporto come trasmissione per la produzione che. Perché ci capita spesso, appunto, visto i libri che pubblicate tra saggistica e romanzi, di parlare dei vostri libri. Questo è un libro un po' particolare, prima di tutto perché io tutto questo l'ho scoperto dopo, ovviamente. L'autrice del libro non è una scrittrice di professione, bensì fa tutt'altro nella vita, ma leggendo il libro tutto penseresti tranne che lei è una scrittrice. E poi perché questo libro è un po' un misto di diversi generi, perché sembrerebbe, no, un libro intimo, personale, perché racconta parti della sua vita, ma allo stesso tempo però poi va a raccontare, va a fare la biografia di un famoso scienziato, il tutto tra il giallo, il punto il biografico, l'autobiografico, cioè un po', ci sono molti stili in un libro che quando a me me l'hanno consigliato, me l'hanno presentato proprio come. Guarda, sembra che non si capisce dove vuole andare a parare, ma poi alla fine torna tutto e rimani sorpreso. E questa recensione fatta così via WhatsApp in 448, io la Molto trovo corretta. molto, l'ho trovata molto centrata poi appunto leggendolo fino alla fine. libro è innanzitutto? Allora, spiegacelo tu, raccontiamolo insieme. Certo, allora, I pesci non esistono di Lulu Miller, che è un'autrice americana che, come dicevi tu, non è una scrittrice professionista, almeno non per ora, perché lei è una divulgatrice scientifica che lavora per la radio, quindi una scrittrice per la radio, lavora per NPR, che è una NPR, che è una, la radio pubblica americana, si occupa di podcast e di trasmissioni che hanno la scienza al centro. La scienza è sempre raccontata molto per tutti, con un tono divulgativo, addirittura adesso un nuovo podcast dedicato alla scienza spiegata ai ragazzi. Questo libro, come giustamente dicevi tu, e come ti ha detto che te l'ha consigliata, perché è un libro che tra l'altro si sta muovendo molto sul passaparola, è un libro che un po' nella sua forma ripercorre quelli che sono i suoi contenuti, perché al centro di questo libro c'è un'idea di fondo, un'idea che viene poi svelata, raccontata in un modo che adesso andremo un po' a vedere. L'idea di fondo che quando noi cataloghiamo qualcosa, quando noi mettiamo dei nomi alle cose, ai sentimenti, alle persone, a tutto quello che ci circonda, ci vediamo in certe gabbie. La nostra mania di definire il tutto molto spesso non è soltanto quella costruzione gerarchica del mondo che abbiamo attorno, e questo può essere molto poco pericoloso, ma può invece portare a delle derive tremende, perché questo è alla base del razzismo, è alla base anche per esempio dell'eugenetica, che è una deriva della la scienza che portava a selezionare gli esseri umani a seconda di una scala di valori che veniva arbitrariamente data da qualcuno. L'idea quindi di non catalogare è un'idea che è anche così riportata nella forma del libro, perché questo libro, come hai detto bene, è un memoir, è una biografia, è anche un'autobiografia, ha delle pagine che sono le pagine di un giallo, perché a un certo punto compare un omicidio, ha delle pagine meravigliose di storia della scienza, ha delle pagine di una storia d'amore. Tutto questo si lega con l'idea e con la volontà di non doversi, chiudere in un genere. C'è un personaggio principale, sono tanti, ma ce n'è uno che è un po' il sottofondo e il punto di partenza del libro, che è uno scienziato che si chiama David Starr Jordan, nato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che era un tassonomista, dava i nomi ai pesci. Quest'uomo ha catalogato centinaia, se non migliaia di pesci, li scopriva, dava loro un nome, li sistemava uno vicino all'altro nell'albero della vita, quindi in una sorta di grosso reticolo in cui da questo discende quello, poi quell'altro, metteva un po' in ordine in quella che è l'evoluzione. L'autrice, che è una lei stessa, quindi qua entra in campo l'autobiografia, si avvicina a questo scienziato perché lei nella scienza cerca una specie di rivincita, di vittoria, no? Perché è molto giovane, lei ha un padre scienziato, un padre molto molto così, uno scienziato duro, uno scienziato materialista. Quando lei, bambina, fa una domanda innocente al papà, dicendo: papà, che senso ha la vita? Il papà, quasi non vedendo l'ora di poter dare la sua risposta scientifica, dice: niente, assolutamente, e inizia a spiegarle perché siamo destinati a tornare polvere e essere meno influenti molto spesso quanto per il pianeta può essere influente una formica. Questa cosa, capisci, può spiazzare un po' una bambina, e lei da quel momento lì cerca invece di trovare attraverso la scienza un'altra risposta, e si batte in David Starr Jordan. Si batte in questo uomo che aveva una caparbietà tale da ricominciare più volte il lavoro di catalogazione dei pesci, perché in un'epoca pre-computer la sua collezione di pesci, tutti dentro un barattolo di vetro, con il nome scritto sul barattolo, con il nome da lui dato, durante un terremoto devastante crolla e lui rientra nella stanza della collezione, una sorta di nuova Babele, tutti i pesci sono per terra, i cui cartellini sono mischiati, e ricomincia da capo. Lulu scopre questa biografia e inizia a raccontare la vita di David Starr Jordan, poi però le cose cambiano, andando avanti nel libro. Sì, tra l'altro ovviamente io non sapevo assolutamente nulla, non semplicemente di questo scienziato David Starr Jordan, ma anche semplicemente di cosa sia la tassiometria, tutta questa roba qui non ne sapevo nulla, l'ittiologia ottocentesca, io proprio completamente ignorante, tra l'altro appunto, però è molto curioso come lei va a raccontare la storia di quest'uomo, che sicuramente è anche una storia molto affascinante, dai volti chiari, volti oscuri e via dicendo, e ti fa anche appassionare appunto, no, a questo racconto, a questa biografia di quest'uomo che più di una volta sembrava è stato messo con le spalle al muro e si è rimesso là di nuovo attraverso la sua caparbietà a ricominciare a ricatalogare di nuovo tutto quanto, ricominciare da zero il proprio lavoro, e lei si identifica in questo personaggio attraverso prima appunto, anzi vorrebbe avere la sua stessa caparbietà, e lei riesce appunto a incrociare quello che le succede nella vita, a usare lo specchio di questo scienziato, attraverso se vuoi anche dei passaggi in alcune pagine del libro, anche molto verrebbero dire psicologici, nel senso che lei si cala, si vede, quantomeno cerca una rappresentanza anche attraverso la lettura e le svolte e la vita di quest'uomo. Si incrociano, almeno nella prima parte del libro, un gioco di specchi che lei è molto abile come narratrice a raccontare, nel senso che questa figura un po' si erge dietro di lei come una sorta di guida, no? Una sorta di padre buono che l'accompagna in un momento parli di grandi cambiamenti, ma cambiamenti umani, una storia d'amore che finisce, la ricerca di proprio ruolo, di un proprio lavoro, di una propria passione nel mondo. Se non che andando avanti con lo studio di quest'uomo, qualcosa, come dicevamo prima, cambia radicalmente e qua il libro prende tutta un'altra piega. A parte che c'è un omicidio di mezzo, un omicidio, tra l'altro un omicidio molto famoso nella storia dell'America, perché ha a che fare con la fondazione della più grande università americana, in cui forse quest'uomo è coinvolto, forse no. E poi ci sono tutta una serie di cose che, come accennavo prima, portano a una deriva scientifica, portano a un'eccessiva volontà di ordinare e di dare i nomi giusti alle cose. Cosa diventa David Starr Jordan? Ma non so se volontariamente o involontariamente, ma diventa uno dei padri dell'eugenetica, che tra l'altro è l'eugenetica che ha portato fino agli anni 70 ancora a sterilizzare contro la loro volontà alcune donne in America perché ritenute incapaci o indegne di procreare. Quindi è un argomento vivente, un argomento che parte da molto lontano ma arriva ai giorni nostri. E lui si imbatte in questa storia. Si imbatte in questa storia nel libro, che sono alcune pagine, forse le più forti di tutto il libro, in cui lei va a incontrare ancora delle donne che hanno subito trattamento. E allora a quel punto il suo grande mito, David Starr Jordan, crolla. Però se crolla anche lui, cosa rimane a questo punto, se non la consapevolezza che è tutto sbagliato, tutto, anche se parte col migliore dei propositi, può diventare sbagliato. E lì c'è la grande svolta del titolo, l'ennesima grande svolta del libro. Tra l'altro sembra che stiamo parlando di un libro di 1000 pagine con tutte quelle che dicevo, ma Esatto, infatti guarda, poi non raccontiamone troppo perché no, non voglio assolutamente. rovinare poi appunto. No, no, no, l'unica svolta è quella che poi spiega questo titolo misterioso, che poi Esatto. tanto misterioso non è, perché il lettore scoprirà che cosa vuol dire e perché c'è molta verità in quel titolo. Esatto, perché si dice i pesci non esistono e la scienza tra l'altro lo spiega e viene spiegato attraverso le pagine di questo libro. Una curiosità, come sei, siete arrivati a questo libro? Allora, facendo semplicemente il lavoro che facciamo tutti i giorni, ossia cercando, seguendo le nostre tracce tra così, cataloghi, agenti, curiosità personale, muovendosi nei cataloghi dei libri futuri che verranno, nei libri che ci saranno, nei proposal, mi ero imbattuto in questo libro che non era forse ancora uscito nel momento in cui l'abbiamo comprato noi di Ad, non era ancora uscito negli Stati Uniti, stava per essere pubblicato, mi sono fatto mandare così per un forte impulso il PDF dall'agente, quella sera non sono riuscito a smettere di leggere, il giorno dopo sono tornato in casa editrice, abbiamo subito fatto un'offerta per averlo. Un libro che è uscito nel 2020 ma che abbiamo ripubblicato l'anno scorso perché nel frattempo l'editore ha fatto un cambiamento grafico, cambiando il logo, cambiando il layout, quindi l'abbiamo rimesso fuori con la nuova veste grafica, quindi sta avendo una seconda vita, ma un libro che, come dicevo prima, vive di un grande passaparola, non solo tra i lettori, che è una cosa straordinaria che fa sempre piacere a tutti gli editori, ma anche tra i librai, perché è un libro che è stato veramente adottato da molti librai, da Treviso, la libreria Lovat, a Modus Vivendi a Palermo, alla Dispoli, per esempio, una libreria, scritti manoscritti, adora questo libro, lo consiglia a tutti. In tutta Italia ci sono librai che ormai lo tengono come una sorta di magari futuro classico, ecco, sia un libro che deve esserci in libreria, cosa non sempre facile, che sempre succede purtroppo con i libri che spesso hanno durate brevi nelle librerie per motivi di grande così affluenza e dei cataloghi che si ricambiano velocemente. Questo invece sta prendendo un posto che spero rimanga. Sì, perché secondo me davvero merita, proprio perché esce fuori nell'ambito una marea di libri che vengono pubblicati tutti gli anni, esce fuori, secondo me emerge proprio perché ha uno stile, una narrazione, un tema che oggettivamente non troviamo spesso e volentieri nelle pubblicazioni in libreria. Ed è stato veramente anche per me una scoperta molto, sì, sorprendente, mi sembra la parola giusta, molto perché contento, molto sì, perché davvero non era, tra l'altro, appunto, mi è stato regalato da una nostra amica in comune, che poi ci ha messo appunto in contatto per questa intervista, di nuovo su Lulu Miller. È curioso come, no, la capacità di una divulgatrice, tra l'altro di podcast, no? Non che il podcast non abbia bisogno di una scrittura, ci mancherebbe, però è un'espressione diversa da quella del romanzo, ovviamente. Però Lulu Miller dimostra di avere forse un talento anche per la scrittura, e di conseguenza chiedo, sai se è in lavorazione qualcos'altro? Ma allora, guarda, una cosa che le chiedo sovintissimo, dato che poi lavorando al libro e con l'amore comprato per questo libro siamo così entrati in contatto. Pensa che per scrivere questo libro ci ho messo 10 anni, 10 anni di ricerca soprattutto. E tra l'altro il libro era realmente nato con un altro intento, avrebbe dovuto essere una biografia di Star Jordan, se non che nel percorso di raccolta dei materiali è successo, Lulu si è imbattuta in tutto quello che abbiamo detto finora riguardo alla figura di questo personaggio, quindi da questa storia che deve essere una biografia più o meno canonica si sono aperte decine e decine di finestre che l'hanno portata altrove, l'hanno portata a muoversi altre riflessioni. Attualmente non sta scrivendo nulla, il fatto che lei sia un'autrice radiofonica, quindi una narratrice che ha bisogno di tempi magari più veloci di quelli della scrittura, è forse stato un aiuto per la scrittura di questo libro, nel senso che su certi passaggi la penna leggera ogni tanto aiuta, perché alcune pagine appunto riuscirono ad avvicinare alla storia di un tassonomista americano di fine 800 è materia complessa. Sì, appunto. Non è facile, quindi la capacità di saper selezionare quelle notizie importanti, di sapersi muovere su dei tempi più rapidi magari rispetto a quelli della grande biografia, hanno fatto sì che questo libro abbia una leggibilità altissima, affrontando temi molto distanti magari dalla nostra cultura o dai personaggi che siamo più soliti conoscere, ma anche temi di portata gigante, perché quando si parla di senso della vita, di valore delle categorie, di libertà di interpretare il mondo, di razzismo, di diritti, bisogna saperlo fare con la capacità di far sentire le persone accolte in questo discorso. Io sono convinto che chi attraversa questo libro, quando chiude l'ultima pagina, alza gli occhi e in qualche modo vede le cose attorno a sé un po' diverse. E se un altro si fa delle domande su come lui chiama le cose, o anche il fatto se può per esempio vivere senza i pesci, perché a un certo punto lui dice se si può vivere senza i pesci, con quante altre cose io posso vivere senza averne? Quali altri nomi posso dare alle cose invece rispetto a quelli che ho sempre dato? Ecco, questa domanda rimane al lettore. Sono d'accordo. Senti, concludendo, allora, stiamo parlando di un libro, appunto, si chiama I pesci non esistono, l'autrice è Lulu Miller, sono 216 pagine con un costo di 18 euro, 216 pagine, poi uno dei formati tra i 200 e le 250 pagine è quello che io personalmente preferisco, lo so, sarò molto gretto nel dire questo, ma a me i libri troppo lunghi faccio fatica, ma perché non ho più tempo ho poco tempo per la lettura, che invece rimane una delle mie passioni, e quindi quando una cosa è troppo lunga, molto molto lunga, faccio più fatica. Invece le 200-250 pagine continua ad essere il formato che io più preferisco, e quindi questo qua, uno dei motivi per cui poi l'ho preso in mano, proprio perché rientrava in questa categoria. Sono molto... Anche se sì. Categoria diventa sempre pericoloso ormai dire categoria, dopo i pesci non esistono, però... No, lo so, però io lo ammetto. Però guarda, una domanda che facciamo a chiunque viene ospitato nella nostra trasmissione, in conclusione, era... A parte se non abbiamo detto qualcosa riguardo questo libro, e poi l'ultima domanda di chiusura era un consiglio di lettura, una lettura che ha fatto anche recentemente, così che vorresti così promuovere attraverso i nostri microfoni, che non deve essere per forza un romanzo, non per forza un saggio, può essere un fumetto, una biografia qualsiasi, una cosa che hai letto ultimamente che hai detto bello, bella, Certo, bello. certo. Allora, beh, noi su questo romanzo abbiamo detto tutto, Tutto quello che potevamo dire, perché tutto poi quello che potevamo è dire, difficile. certo. No, sto leggendo un libro che invece vado nella direzione opposta, perché questo è un libro di tantissime pagine, che però possono essere lette con il proprio tempo, ma penso che sia un saggio che mi sta conquistando. L'ha scritto Sergio Luzzatto, l'ha pubblicata Einaudi, è Dolore e Furore, ed è la storia, sottotitolo è Una storia delle Brigate Rosse, è uscito da poco ed è un libro che riesce a mettere insieme tutto un mondo attraverso la costruzione non soltanto di quel mondo lì, ma di quello che lo circondava in tutti quegli anni. Guarda, ne abbiamo parlato 2 o 3 settimane fa proprio qui a Tabula Rasa, quindi come vedi c'è sintonia, nel senso. Poi, anzi, ti invito pure ad ascoltare la presentazione che abbiamo fatto del libro insieme a Paolo Persichetti, se non sbaglio 2 o 3 settimane fa, all'interno della nostra puntata dedicata alla saggistica, riconoscendogli meriti e dandogli anche quelle che noi pensiamo fossero le critiche del libro. Però vedi, quello 700 pagine me lo sono letto, perché è vero che al di là delle critiche che abbiamo fatto sul libro io stesso e via dicendo, ha una scrittura per cui ci ho messo un po', ovviamente, però ha una scrittura per cui quelle 700 pagine scivolano molto in maniera più fluida di tanti altri libri, anche di romanzi, e non è un romanzo, è un libro di storia. Soprattutto secondo me ha un pregio, poi sì, possiamo anche parlare di difetti, ma il pregio comunque di allargare la ricerca anche a luoghi in cui non sempre si è andata a guardare raccontando certe storie, no? Quindi Sì. scoprendo certe cose che uno magari nel percorso storico non individua come importanti per, come causa o effetto di altre situazioni, ma che invece sono fondamentali e vanno conosciute. Quindi questa è la lettura attuale molto molto coinvolgendo e che mi sta facendo anche molto riflettere. Stefano, un abbraccio. Stefano Del Prete, ADD Editore, una casa editrice che noi, appunto, con cui spesso ci troviamo a parlare, non direttamente, ma a parlare attraverso i libri che pubblicano. Ancora grazie, quindi il nostro invito è sentirci prossimamente, e un Molto volentieri. abbraccio da Grazie a parte di te. Tabula Rasa.